nell'ultima parte del timone, questo racconto, questo viaggio attraverso le notizie della giornata, presentiamo dei libri, cioè spogliamo le pagine che normalmente stanno all'interno di libri, pagine di carta che diventano digitali a volte fatti di parole, fatti di radio. Io saluto Federico Rapponi, buongiorno. Ormai diversi mesi stai girando l'Italia come un contista, come un antico cantastorie, raccontando il contenuto di questo tuo libro, che poi racconta tante esperienze, tante cose che hai visto, e si chiama Quando il fumo si dirada. È un libro innanzitutto indipendente, e come tale lo vogliamo trattare, in quanto i libri indipendenti hanno sempre una grande difficoltà di distribuzione, ma se trovano le gambe giuste viaggiano, dicevo, in lungo e in largo per il nostro paese. Innanzitutto, quante presentazioni hai fatto in giro per l'Italia? Tante, tantissime. Siamo quasi a 50, Daniele. Sabato scorso sono stato a Fabriano, al laboratorio sociale Fabri, festeggiavano i 15 anni di attività e hanno inserito la presentazione del mio libro, ho parlato davanti a più giovani di me, il che è una grande soddisfazione, io a quello punto, insomma. Soprattutto il pubblico giovanile, del resto tu non sei un vecchiato come me, ma non sei nemmeno un giovanissimo, però tu racconti un po' quella che è stata la tua esperienza, che è stata un'esperienza politica, ma anche un'esperienza culturale, tanto che sei riuscito a mettere in campo e in piedi forse il più importante archivio digitale, audio, di teatro. Quante opere hai registrato, comunque ti hanno inviato? Hai parlato con centinaia tra registi importanti, meno conosciuti, realtà teatrali del nostro paese, e volevo anche sapere, dopo questi mesi non bellissimi per la cultura, per il teatro, cosa è rimasto di tutto questo mondo che tu hai raccontato da molti anni. Il mondo del teatro in Italia. Siamo intorno agli 800 lavori tra spettacoli integrali, estratti, letture. Ho cominciato nel 2008. Sono andato anche più indietro nel tempo, c'è anche un tributo a Carmelo Bene, ma insomma abbiamo attraversato questi decenni cercando nei teatri off soprattutto tutto quello che si muoveva, e quindi abbiamo raccolto la testimonianza, i lavori di autori più conosciuti ma anche esordienti. È un archivio notevole, sì, credo sia secondo solo a quello della Radio Rai, ed è fruibile gratuitamente in rete. Abbiamo fatto soprattutto spettacoli dal vivo in studio, quindi venivano da me, abbiamo ospitato fino a 12 attori e attrici con 3 microfoni in studio, però mi mandano anche registrazioni o registro direttamente io durante gli spettacoli la versione audio e poi quella mando in onda, ed è bello il teatro da ascoltare in radio, è propedeutico a quello che sarà poi la visione in scena, perché non penalizza, anzi aiuta la visione teatrale, e vanno di pari passo queste due esperienze. Ti domandavo prima che cosa è rimasto però di tutto questo teatro fatto e realizzato dopo gli anni della pandemia, che poi non sono ancora finiti. Faccio degli esempi perché ho scoperto che, grazie, lo metto tra virgolette, a quel bravissimo ministro della cultura chiamato Dario Franceschini, i soldi sono andati soprattutto ai teatri stabili attraverso il FUS, mentre invece i teatri, quelli off, ma anche semplicemente i teatri non indipendenti, comunque non stabili, non ce l'hanno fatta, o sono chiusi oppure vivono in gravissime difficoltà, no? Perché comunque fare teatro oggi in Italia, parlo penso soprattutto alle compagnie, è sempre molto dispendioso, non soltanto in termini di tempo ma anche in termini economici. Cosa è rimasto del teatro in Italia? Tutto quello che hai messo in piedi come archivio, c'è ancora tanto di quel teatro oppure tanto è morto? Sicuramente il teatro come poi il cinema, hanno vissuto una grossa crisi per questi 2 anni di chiusura, con la differenza che secondo me il teatro la sta superando meglio, perché poi ogni spettacolo è un evento unico, un evento a sé stante, non è come un film che è sempre la stessa proiezione. E chiaramente molti artisti e molte artiste si sono dovute reinventare, a trovare nuove forme, ma il teatro poi alla fine si può fare ovunque. Poi io, venendo soprattutto dall'esperienza dei teatri off, questa energia continuano ad averla, inventiva ed energia per andare avanti. Sicuramente ci sono state grosse difficoltà, ma quello dei finanziamenti è un discorso che ci portiamo dietro da tanti anni. A essere finanziate sono sempre le realtà più grosse e importanti, questo si sa, e quindi rispetto ai finanziamenti si devono inventare sempre nuove forme. Chi si muove in maniera sotterranea, il teatro off, quello sperimentale, quello che pratichiamo, ecco. Ringrazio Federico Rapponi che continua a girare. Quali saranno le prossime tappe? Per ora l'ultima data in programma è stata quella di sabato scorso, però ci continuiamo a muovere soprattutto in una forma combinata, con un documentario che si chiama Roma Illegale di Andrea Scarcella, che racconta la scena rave soprattutto nel periodo degli anni 90 e soprattutto nella metropoli di Roma, e un graphic novel Cassadritta di Roberto Grossi sullo stesso argomento, considerando che il mio libro ha un capitolo dedicato alla colonna sonora del cosiddetto movimento antagonista, che quindi comprende il reggae, il ragamuffin, i sound system, l'hip hop, il rap e i primi illegal rave, che sono nati proprio dopo l'esperienza inglese, soprattutto a Roma, grazie ai primi illegal rave messi in piedi da tutta l'area dei centri sociali. Grazie a Federico Rapponi, in diretta su Giornale Radio. Si chiude qui il timore.